Bene, ecco, mo ci siamo quasi su, ecco qua, l'accendino, ecco. Allora, siete pronti questa mattina? Sapete l'eccezionalità di essere qui qual è? È che Dio, nella sua grazia, nella sua grandezza, ha preparato questo appuntamento per ognuno di noi. Lui sapeva che saremmo stati qui, sapeva quello che sarebbe stato predicato, e si aspetta anche di vedere quello che è nel suo cuore. Quando abbiamo pregato prima, io ho pregato con Angela, che quello che è nel suo cuore, quello che è nella sua volontà possa essere realizzato questa mattina. E questo per me è l'aspettativa più grande, l'onore più grande, quello di sapere che Dio ha pensato questa mattina e ha pensato a me, ha pensato a te. È incredibile. Questo mi emoziona, anche se non si direbbe, però è così. Dunque, io voglio darvi una notizia che è sfuggita a Sara. Gesù ritorna. Gesù ritorna, sì. Che io vorrei che noi riflettessimo un attimo su creazione suscitano queste parole dentro di noi, indipendentemente dal fatto dell'enfasi, del contesto, del contorni che ci sono, semplicemente il fatto di sentir dire che Gesù ritorna, che emozioni provoca dentro di noi? Io me la sono fatta questa domanda e mi sono fermato anche a pensare. E non è stato, diciamo, tanto, tanto bello quello che è venuto fuori. Perché ho pensato, vabbè, se Gesù dovesse tornare proprio prima che sconto il mutuo della casa, o se dovesse tornare proprio il giorno che devo ritirare la macchina nuova, che non faccio, o appena il giorno prima che mi sposo, che ho fatto tanti sacrifici e lui ritorna. E mi sono fatto tutti questi flash nella mia testa. E ho pensato e ho visto, e poi ho pensato a gennaio del 1986. Nel gennaio del 1986 è successo qualcosa di molto particolare. Angela e io, più Angela che io, siamo andati dal medico, dal ginecologo, e siamo andati con un motore, con un Moto Guzzi 50 che ci avevano regalato, che era talmente usato che scappava la catena quando camminavamo. Però con quel motore siamo andati dal ginecologo, e a un certo momento è successo che questo dottore ha messo una specie di trombetta sopra la pancia di Angela, e sapete che cosa abbiamo sentito? Il cuore di battere. E quel battito del cuore è qualcosa che non posso dimenticare, è qualcosa che è dentro di me. E poi il dottore ci ha guardato e ha detto: è una femminuccia. Ed era Noemi, la bambina mia. E sapete, ogni volta che io penso a questo episodio e ricordo quel rumore, mi emoziono. Non c'è bisogno di che ci siano le stelle, che ci sia niente. Mi emoziona perché quel momento ha avuto un significato importante. In quel momento un po' che è cambiata la mia vita, perché in quel momento io ho capito che stavo diventando padre. E per emozionarmi al pensiero non serve altro, basta che io mi fermo e ricordo, e lo ricordo come fosse adesso, quel momento, quel suono. Adesso proviamo da capo. Gesù ritorna. Gesù ritorna. E questo dovrebbe provocare in noi qualcosa di più di quello che provoca il ricordo di quel pensiero, del battito del cuore di Noemi nella mia testa. Perché? Perché quel rumore del battito del cuore di mia figlia, della bambina mia, ha cambiato me, ha cambiato mia moglie. Ma quando Gesù ritornerà, avrà un cambiamento globale, avrà un cambiamento per tutte le persone che saranno presenti sulla faccia della terra, e a dire la verità anche per quelli che non ci sono più, però questo è un altro ragionamento. Però sarà qualcosa di immenso, di universale, di glorioso, molto di più del battito del cuore di Noemi. E allora proviamo a pensare a che emozioni suscitano determinate cose e a che emozioni suscita nel cuore nostro il fatto che Gesù ritorna. Sapete, il fatto che Gesù ritorna è una cosa certa, è una cosa sicura, e Gesù lo ha illustrato in maniera molto, molto dettagliata. Se andate a leggere Matteo capitolo 24 e 25, proprio alla domanda che i discepoli gli fanno, Gesù risponde proprio scendendo nei dettagli. E alla fine di tutto questo discorso, lui racconta tre parabole, e in queste tre parabole illustra la situazione nella quale noi potremmo venirci a trovare. Ve le potete andare a leggere, però è qualcosa che ci riguarda, perché indipendentemente dal peso che gli diamo, indipendentemente dall'aspettativa che abbiamo, Gesù ritornerà, e ritornerà esattamente come ha detto, e succederà esattamente quello che lui ha illustrato. E io vorrei assieme a voi questa mattina andare a guardare una di quelle parabole, perché in una di quelle parabole c'entriamo tutti quanti noi, ed è quella che è scritta in Matteo 25, dal versetto 1. La leggiamo assieme. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade. Adesso capite il motivo di questa lampada, poi vediamo se funziona. Le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute, 5 erano stolte, che è il modo migliore per dire che erano stupide. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono e si addormentarono tutte. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Vediamo, funziona. Proviamo a vedere se funziona. Prepararono. Che capolavoro. Prepararono le loro lampade e le stolte. E le stolte dissero alle avvedute, prepararono le loro lampade e presero anche l'olio. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono e tutte si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco, arriva lo sposo. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci dell'olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Adesso questa non è una scenografia preparata, però sta funzionando, va bene? Ma le avvedute rispondendo dissero: no, perché non basterebbe né a noi e né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: in verità io vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Ora, per capire questa parabola, dobbiamo sapere un po' come funzionava il matrimonio. Proviamo ad accendere di nuovo. lasciamo così, vediamo se è meglio. Il matrimonio al tempo di Gesù come funzionava? Innanzitutto dovete sapere che si sposavano molto giovani, i maschi 18-20 anni massimo, e le femmine dai 13 anni ai 15 anni si dovevano sposare, quindi era qualcosa che avveniva molto molto velocemente. E generalmente era il papà dello sposo che prendeva l'iniziativa per fare questo affare, perché di questo si trattava. Si trattava proprio di cercare di arricchire la famiglia, di allargare la propria famiglia nella direzione migliore. Allora lo sposo proponeva il matrimonio e quindi se c'erano i termini d'accordo si faceva il fidanzamento. Quindi nel fidanzamento ognuno prendeva i suoi impegni, la famiglia dello sposo doveva preparare la casa nuova per gli sposi, la famiglia della sposa doveva provvedere a tutto quello che concerneva la festa, che concerneva il ricevimento. E una volta che si era raggiunto l'accordo si firmava il contratto, si dava la era così che funzionava, si firmava il contratto, si dava la caparra e da quel momento la coppia era fidanzata, forse nemmeno lo sapeva, però era fidanzata. E era un impegno molto importante. Dovete pensare che se durante questo periodo di fidanzamento, non ne vuole sapere, se durante questo periodo di fidanzamento moriva lo sposo, la ragazza veniva ritenuta una vedova e veniva trattata in quel modo almeno per un periodo. Dopo il fidanzamento, che durava circa un anno, così alla data prestabilita, prima le famiglie si accertavano che ognuno avesse rispettato i termini dell'accordo, ed è per questo che lo sposo ha fatto ritardo, perché sono stati a vedere: io ho fatto così, tu hai fatto così, ma nella casa ci doveva essere la finestra a nord, invece è a nord-ovest, va bene, la mettiamo a posto. Insomma, perdevano tempo in queste cose qua. Quando era tutto chiaro, era messo tutto a posto, lo sposo poteva andare a prendere la sposa, e che aspettava a casa sua, e lo sposo quindi andava a casa della sposa a prenderla per portarla nella loro casa. Ed è per questo che lì aspettavano tutti gli invitati, in modo particolare le amiche della sposa, con le loro lampade accese. E con le loro lampade accese perché? Perché con le loro lampade accese illuminavano il percorso per andare da casa della sposa a casa dello sposo. Cioè non è come oggi che c'è sono le illuminazioni, cioè, era fate finta in campagna al buio, e se non c'è la lampada non sai neanche dove vai. Quindi era importante che le lampade fossero accese, anzi solo chi aveva la lampada accesa era riconosciuto come invitato, era riconosciuto come partecipante al corteo nuziale. E quindi poi accompagnavano a casa degli sposi questa nuova coppia, che festeggiavano, e il giorno dopo iniziava la festa per tutti, che durava circa una settimana. Questo era l'iter del matrimonio. Quindi la lampada accesa era qualcosa di molto importante, distingueva chi era di passaggio lì da chi era invitato alla festa. Noi siamo invitati alla festa e noi qui abbiamo, tranne io, tutti quanti la lampada accesa. Perché? Perché stiamo aspettando lo sposo, o no? Sì o no? Sì. E ci siamo preparati e siamo entusiasti e non vediamo l'ora che lo sposo arrivi. Il pericolo è che qualcuno si addormenta, però lo sposo prima o poi arriva. La prima osservazione importante da fare è che siamo invitati a una festa. E la festa di cui parla Gesù è la sua festa di nozze. E in un altro posto, in Luca 14, viene proprio descritto come Gesù voglia che tutti quanti partecipano alla festa, che nessuno rimanga fuori. Manda a chiamare gli zoppi, manda a chiamare tutti, ai crogi, fermatevi, c'è ancora posto, fate venire tutti. E non perché ci sia un merito, non perché abbiamo la possibilità di preparare la busta del regalo importante, ma è per la sua grazia. È perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù sulla croce, non per giudicare, ma per salvare il mondo, per salvare me, per salvare te, che noi possiamo partecipare a quella festa. Tu sei invitato a una festa. Quando noi annunziamo l'Evangelo, stiamo invitando le persone a una festa. E questo deve essere il sentimento, deve essere l'aspettativa, la gioia del nostro cuore. Gesù, descrivendo se stesso, ha detto in Giovanni 8:19-12: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà luce della vita. La lampada accesa è simbolo della salvezza, è il contrassegno di chi è invitato alla festa, di chi ha accettato l'invito, di chi sta vivendo, aspettando le nozze, e chi invece sta per conto suo e non ne vuole sapere di partecipare a questa festa. E lo sposo verrà. E a un certo momento, dice questa storia, che quando tutti, non che si erano dimenticati, ma si erano appisolati, cioè si erano quasi, che ne sa, si stavano perdendo tempo su WhatsApp, si stavano mandando i messaggi, stavano guardando qualche video, cioè si erano quasi dimenticati che stavano aspettando lo sposo, qualcuno ha detto: ecco lo sposo che arriva. Tutti e 10 stavano aspettando lo sposo. E proprio quando si è levato quel grido, che noi possiamo tirar fuori e prendere dalla storia e scoprire dalla storia un altro protagonista della storia, che è l'olio della lampada. Gesù ha raccontato questa storia per mettere in evidenza ogni singolo protagonista, e se il protagonista è lo sposo e sono le 10 vergini, un protagonista che permette di dare sostanza alla storia e di fare una bella fine nella storia, è l'olio. E l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Adesso io non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli di questo. Per entrare nei dettagli ci sono il percorso 1, il percorso 2 e il percorso 3, che ci spiegano e ci illustrano tutto quello che dobbiamo sapere riguardo lo Spirito Santo, e ci danno anche la dimostrazione più pratica che si tratta dello Spirito Santo. Però voglio darvi uno spunto per rimanere nella storia. Nell'ultima chiacchierata che Gesù fa con i discepoli prima di essere arrestato, lui dice proprio qualcosa riguardo dello Spirito Santo. In Giovanni al capitolo 16, al versetto 12, dice ai discepoli, così dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Perché non era un complimento, però era un dato di fatto. Ma quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma vi dirà quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Lo Spirito Santo vi guiderà nella verità e vi annuncerà le cose a venire. Ora, se noi pensiamo alle lampade, alla luce e al percorso buio illuminato da questa luce, possiamo accostarlo, senza che sia una forzatura, proprio al ruolo dello Spirito Santo, che è quello di illuminare e guidare nella verità. Illuminare e guidare nella verità la nostra vita ma anche la nostra famiglia, anche la nostra Chiesa. Quindi non è così un concetto che non possiamo afferrare. Ora, questo Spirito Santo era quello che, quest'olio era quello che permetteva alle lampade di essere accese. Come si fa a vedere se una lampada è accesa o è spenta? Proviamo di nuovo. Come si fa a vedere se una lampada è accesa o è spenta? Dalla fiamma. C'è qualche altro suggerimento? Ti vengo a vedere lo stoppino. Io penso che la cosa più semplice è che se c'è luce è accesa la lampada, perché metti che la lampada sta dietro a un muro, se tu vedi la luce sai che è accesa la lampada, se vedi che è buio è spenta la lampada. Gesù, ascoltatemi bene, Gesù nella parabola che abbiamo letto dice che su 10 vergini che stavano lì ad aspettare, 5 non avevano abbastanza olio per la loro lampada perché rimanesse accesa. Su 10, 5. Adesso io non lo so se Gesù era pessimista o aveva solo un brutto carattere. Però guarda la persona che ti sta accanto, guardala per piacere, guardala. Ecco. Quello che Gesù sta dicendo è che la persona che ti sta accanto, che tu hai guardato, può darsi che non abbia abbastanza olio per tenere la sua lampada accesa. E sapete qual è la gravità, il peso di questa affermazione? È che non è la prima volta che fa questa affermazione in questa storia. Nel capitolo 24, il versetto 40, di nuovo Gesù si trova a fare la conta, a dire uno viene preso e l'altro lasciato, due stanno là, uno viene preso e uno viene lasciato. Allora, capite perché non capisco se era pessimista o aveva solo un brutto carattere? Perché sta parlando del 50% di possibilità che io abbia abbastanza olio per tenere la mia lampada accesa. Sta parlando del 50% di possibilità del fatto che al momento opportuno io possa non essere pronto. E non essere pronto significa rimanere fuori dalla festa. Non essere pronto significa che con tutta la tua buona volontà, come quelle 10 vergini che sono andate a comprare l'olio, hanno acceso le lampade, sono ritornate indietro, hanno bussato alla porta, gli ha detto: io non vi conosco. Questo è il senso della storia. Quindi faremo bene a prenderla in seria considerazione e ad aprire bene bene le nostre orecchie e il nostro cuore. Perché questo è quello che Gesù sta raccontando in questa storia. Sta dicendo, guardate che occhio, occhio alla vostra lampada, occhio alla fiammella che era proprio così, vedete, si sta spegnendo, era proprio così. Vediamo se miglioriamo la cosa o la peggioriamo. Merito la tocchiamo. Occhio! Ora, il risultato dell'olio che brucia, il frutto dell'olio che brucia, è la fiamma. Come facciamo noi a vedere se dentro di noi c'è abbastanza olio o abbastanza Spirito Santo per essere sicuri che abbiamo abbastanza riserve per essere pronti? Tra parentesi, è una cosa che ci dobbiamo preoccupare di fare adesso, perché la storia ci dice che dopo può essere troppo tardi. Mottola, Anche a Mottola, questo è valido per Mottola, è valido per tutti. Quindi è adesso che noi dobbiamo renderci conto e andare a vedere: ho abbastanza olio per essere pronto al momento opportuno o meno? Dunque, abbiamo detto che la luce della lampada è il frutto del risultato dell'olio che brucia. Il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita è descritto chiaramente, è descritto proprio in maniera precisa in Galati al capitolo 5, il versetto 22. Non abbiamo da doverci sforzare a dire: mo, come devo fare a vedere, mo, da chi devo andare a fare una ricerca su internet a vedere, ho abbastanza olio? No, basta che vai a leggere la Bibbia. Galati capitolo 5, versetto 22. Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Adesso, di tante cose che ne ha scelto queste, e ognuna di queste sarebbe da andare a verificare, a esaminare in maniera molto accurata. Io l'ho fatto con uno solo, con l'autocontrollo. Sapete perché l'ho fatto con l'autocontrollo? Perché io non ho abbastanza di autocontrollo. Riesco, ho imparato a contare fino a 10. Dopo tanti sforzi, dopo tante delusioni, dopo tanti guai che ho combinato, ho imparato a contare fino a 10, e se non mi sento ancora attivo, di contare un'altra 10, e a volte arrivo a 100 e continuo a contare. Quindi con l'autocontrollo io sto a posto, sto. Fammi andare a vedere l'autocontrollo. E sono andato un po' a riflettere su questo. La definizione di autocontrollo nel dizionario di lingua italiana è controllo, dominio di se stessi, padronanza delle proprie azioni e dei propri impulsi. Quindi noi siamo portati a credere che l'autocontrollo sia qualcosa alla nostra portata, magari con un po' di esercizio, magari con un po' di sforzo, magari con un buon coach, impariamo ad autocontrollarci. Ma è proprio questo quello che intende la parola di Dio come frutto dello Spirito Santo. Se è qualcosa alla quale posso arrivare io, sforzandomi un poco, è possibile che sia anche un frutto dello Spirito Santo, o c'è qualcosa di più che dobbiamo afferrare? E la domanda essenziale è: ma sono io che devo controllare me stesso, le mie emozioni, i miei pensieri, i miei sentimenti, o è lo Spirito Santo che deve controllare me, le mie emozioni, i miei sentimenti, i miei pensieri? Perché se sono io, si tratta del mio autocontrollo, ma se è lui che deve controllare, è qualcosa di diverso. È qualcosa di molto diverso. Allora, proviamo a ridefinire l'autocontrollo come risultato del frutto dello Spirito Santo. E io ho scritto così: autocontrollo, risultato del frutto dello Spirito Santo nella mia vita, è lasciare a Lui e alla Sua volontà il controllo delle mie azioni, dei miei impulsi e dei miei sentimenti. E non mi sono trovato più tanto a posto. Non mi sono sentito più tanto a posto. Perché di fronte a una delusione, di fronte a una prepotenza, di fronte a un abuso, di fronte a qualcosa che non mi piace, io posso controllare i miei sentimenti, ma comunque che sentimenti stanno dentro di me? Posso controllare le mie azioni, ma comunque quelle azioni sono quel che io voglio fare. Vi faccio un esempio. Allora, quando io guido la macchina, vedo le cose che non tanto mi piacciono. Il mio autocontrollo quasi sempre non mi fa dire le parolacce. Quasi sempre non mi fa dire le parolacce. L'autocontrollo dello Spirito Santo è quello che mi dice: tu devi benedire, devi perdonare quella persona e la devi benedire. E c'è una grande distanza tra quello che vivo e tra quello che dovrei fare. Ora, io credo che se noi facciamo questo semplice esercizio, ci rendiamo abbastanza conto di quanto olio sta nelle nostre lampade. Ci rendiamo abbastanza conto se facciamo parte di quella metà che sta tranquilla o di quella metà che si deve iniziare a preoccupare. E forse dobbiamo iniziare questa mattina a fare qualcosa. Forse dobbiamo questa mattina iniziare a pensare e a dire: fammi vedere dov'è che posso andare a comprare un po' di olio, dov'è che posso attrezzarmi per essere veramente pronto. Un'altra domanda. Prima, vi ricordate, vi ho fatto girare a destra a sinistra e vi ho fatto guardare la persona che vi era accanto e vi ho fatto pensare che magari quella persona può non essere pronta, perché non sono io che lo dice, è la storia che lo dice. Ora, la domanda è questa: noi c'entriamo qualcosa con la fiammella dell'altro? Vedete, la storia delle 10 vergini è tragica, è drammatica, perché sta parlando di persone che sono lì ad aspettare lo sposo, ma ognuno pensa per conto suo, ognuno si preoccupa per sé, ognuno guarda la sua fiammella. E il risultato sapete qual è? Che metà degli invitati non sono venuti, non sono andati. Ora, alla domanda: c'entro qualcosa io con la fiammella dell'altro? La risposta è sì. Tu c'entri con la fiammella dell'altro. Tu c'entri col fatto di vedere se la fiamma, se nella lampada dell'altro c'è abbastanza olio per arrivare fino alla fine della festa. Perché? Per amore dello sposo. Per amore dello sposo. Lo sposo ha dato la sua vita perché ognuno ha dato la lampada e si è invitato a quella festa. E lo sposo non sarà per niente contento di vedere dei posti vuoti. Lo sposo non sarà per niente contento di dire: vedi, a Stefano l'avevo invitato e non c'è. Che occasione meravigliosa abbiamo con i gruppi familiari, di guardare le lampade l'uno dell'altro. Di chiedere aiuto se ne abbiamo bisogno. O di farci aiutare. O di aiutare qualcuno. Per amore dello sposo. Può darsi anche che non ti sono tutti simpatici quelli del gruppo. Può darsi. Ma per amore dello sposo. Tu puoi guardare alla fiammella dell'altro e sentirti responsabile, sentirti partecipe del fatto che lo vuoi con te. E questo getta una luce nuova in tutta questa storia. Perché tu puoi essere vergine, puoi essere anche a posto, ma se non ti stai anche preoccupando per chi ti sta a fianco, sei a posto tu, ma forse non vuoi così tanto bene allo sposo. Io voglio concludere, e voglio leggervi un ultimo verso, in 2 Pietro, al capitolo 1, al versetto 5. Fate finta che avete appena finito di leggere la storia della parabola che Gesù ha raccontato, delle 10 vergini. E dice: anche voi, per questa stessa ragione, e cioè per il fatto che tu puoi essere partecipe o puoi non avere tutte le risorse per essere a quella festa, ma comunque stai aspettando lo sposo e hai la possibilità di aiutare o di essere aiutato, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto, l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non giusto, ce l'abbiamo fatta, abbondantemente, non vi renderanno né pigri e né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù. Sarebbe da iniziare da capo e iniziare a valutare quanta pigrizia o sterilità c'è nella mia vita, e potremmo iniziare da capo. Ma non credo ce ne sia bisogno. Io credo che quello che il Signore aveva da dire al cuore nostro, a ognuno di noi, l'abbiate, almeno a me me l'ha detto. E quindi quello che lui si aspetta è che la sua volontà sia fatta nella terra come è fatta nel cielo, che ognuno di noi possa prendere seriamente in considerazione di esaminare se stesso e di vedere quanto odio c'è nella mia vita, ce n'è abbastanza? E dopo che hai fatto questo, iniziare a vedere: ma il mio fratello, mia moglie, mio figlio è con me, lo posso aiutare in qualche modo, perché io lo voglio al fianco mio a festeggiare il fatto che Gesù ritorna. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei pregare un momento. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché quando tu ci parli, non ci parli per metterci alle strette o per accusarci. Tu ci parli affinché noi possiamo essere guariti, essere consolati e capire quello che dobbiamo fare per partecipare alla festa che tu stai preparando per noi. Signore, la mia preghiera per me e per ciascuno di noi, qui e a Moto, è per la tua Chiesa, Signore, è che noi possiamo tenere gli occhi bene aperti sul fatto che tu ritorni, e che tu ritorni e succede quello che tu hai detto, e che il tuo desiderio è che noi siamo partecipi alla festa. Ti prego, Signore Gesù, di confermare questa parola nel nostro cuore e farci scoprire quella che è la tua volontà, che si possa alzare su di noi la luce dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo, affinché noi possiamo conoscere qual è la tua volontà e riscattare ogni cosa della nostra vita, ogni cosa della nostra famiglia, ogni cosa della nostra Chiesa, alla tua volontà, per la gloria del tuo nome. Grazie, Gesù.